visto prati a perdita d'occhio lungo l'autostrada, con scampagnate di margherite che ridevano a gruppi come in un giorno di festa, e il verde saliva fino al cuore e tutto sembrava libero di crescere secondo i desideri, e anch'io crescevo fuori dal mio corpo e dalla mia auto e non ero confuso. Un diario che inizia con una poesia. Considerazioni più che altro. Dedico questo diario al tempo in cui il pensiero sarà libero. Molto interessante. Sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati, da soli, ma non immaginavo in questo posto. E quando scrivevo il mio diario, l'unico angolo del mio appartamento dove l'occhio elettronico non poteva frugare, sentivo che il nostro incontro avrebbe cambiato la mia vita. La cambierà. Del resto il tuo diario lo scrivevi per me? Pronti per i 30 secondi del civile rifiuto. Ecco un gruppo di irregolari che viene trasferito altrove. Osservate i loro sguardi fieri, il loro modo di vestire e di camminare. Sembra che ridano di voi, che con la vostra cultura avete illuminato il mondo. Date libero sfogo al vostro rifiuto. 30 secondi. Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario. Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario. Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario. Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario. Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario. Abbasso il grande fratello, viva la fratellanza umana. Ci incontreremo nel luogo dove non c'è tenebra. Non hai mai capito se quella frase te l'avessi detta davvero o se tu l'avessi soltanto sognata. Ho gridato. Mi avranno sentito. Ti sentono sempre! È questo il bello della nostra grande civiltà, la comunicazione. E se ti guardano in faccia, sentono anche quello che non dici. Ti guardano e leggono. È straordinario. Così restano in circolazione solo quelli che hanno i pensieri tutti belli regolati. E gli altri... Beh, gli altri chi se ne frega, se non capiscono che questa è la libertà. Ma cosa c'è di meglio che essere sempre coperti? Quello che pensi è già stato approvato, all'assenso della regola, della tua regola. E che ti può succedere? Niente, né dentro né fuori, sei una statua, un monumento. C'è ancora chi scrive su fogli di carta, in segreto. Per carità, non è vietato, però è brutto. E il brutto prima o poi viene sempre a galla. Nessun pensiero irregolare può nascondersi a lungo. Se c'è una speranza è nella massa degli utenti. Sto vivendo in pieno psicoreato. Nessuno sa che cosa succede nei sotterranei del Ministero della Regola a quelli che vengono sollevati dalla libertà. Sono già morto. Sono già morto come persona. È solo questione di tempo. È come con la morte! Nessuno sa che cosa c'è dopo! Ed è meglio così! Io mi illudo, faccio finta di niente. Ma scrivere un diario a penna contraddice la regola. Avere i pensieri che ho io contraddice la regola. Lo psicoreato non comporta la morte! Lo psicoreato comporta la morte. Lo psicoreato è la morte! Un affarino di 8 anni! Per tua fortuna ti ho sempre letto negli occhi. Gli occhi elettronici sono dappertutto, si infilano dappertutto e quindi lo psicoreato non sfugge. Lo psicoreato è la morte! Una trottolina di 8 anni! Una trottolina? Ma sì, mia figlia! Parla come un libro stampato. Ah, scusa, ho usato parole fuori corso, volevo dire come un file approvato. Mi dispiace che ieri quando mia moglie ti ha chiesto di aggiustare lo scarico del lavandino, la piccola ti abbia colpito con delle biglie e ti abbia chiamato traditore. Non c'è problema, stava giocando. Mica ti sarai spaventato? Ma no, una bambina. Ah beh, bambina non bambina, così all'improvviso, colpito con delle biglie, traditore! Basta poco a spaventarsi e l'accusa di volto reato è bella che pronta. Per così poco? Se ti spaventi è la regola, non a norma. Col fatto che mia figlia studia dai giovani osservatori, mi sto facendo un po' più di cultura anch'io. Hanno ragione, quelli che ci dirigono. Se dentro di te c'è la pulizia, quella vera, se la tua regola è lucida, niente ti può smuovere, sei una statua. Ma mica parlo di te, eh? È così per dire. Così per dire, ad esempio, che ci hanno visto giusto, secondo me, a decidere che ognuno di noi debba avere una microcamera al polso per poter riprendere tutto. Non lo sapevi? Sì, una microcamera. Sì, l'ho sentito un notiziario. Che poi mi piace riprendermi. È divertente. Poi corri qualche monitor per strada a rivedermi. A un altro notiziario hanno detto il contrario. E un altro ancora propagandavano un'altra decisione. Propagandavano? Sì, insomma... Mi hai capito. Potrei denunciarti per verbo reato, lo sai, sì? Mi è venuto così, non ci ho messo intenzione. Ci si mette sempre intenzione, come ci insegnano i nostri psicodirigenti. È un verbo della nostra lingua. La nostra lingua è archeo, la parleranno solo gli utenti. Il futuro è lì. Sì, lo so, la liberlingua è bellissima, non discuto, ma intanto la memoria non si può annullare. La memoria è pericolosa, dovresti sapere anche questo. Insomma, che cosa vuoi fare? Io? Ma niente, ma... Ti sei spaventato? Hai pensato davvero che potessi denunciarti per verbo reato? Il mio vicino di casa! Ma io sono della vecchia generazione! Questa è roba per giovani frenetici, fanatici e irreprensibili, nati e cresciuti nella nuova epoca! Certo, se avessimo già avuto le microcamere non avrei potuto farne meno, ma così... E comunque, un terzo notiziario informava di un'altra decisione ancora. È naturale! E secondo me, di sicuro, forse ce le daranno in dotazione! O forse no! E sarebbe un bene! Cosa? Che ce le diano o che non ce le diano? Non fare il difficile! L'importante è sapere che questo è bene! E io non mi sbaglio! E comunque adesso devo andare, ma ci vediamo dopo per il caffè! Mi raccomando, non mancare, ti devo parlare di una faccenda importante! Pronti per i 30 secondi dell'amore! 30 secondi dell'amore! Ognuno al proprio posto! Lunga viva il Grande Fratello! Lunga viva il Grande Fratello! Capitano della nostra squadra! Capitano della nostra squadra! Capitano della nostra nazione! Capitano della nostra nazione! Capitano dei nostri eserciti di pace! Capitano dei nostri eserciti di pace! Capitano di ognuno di noi! Capitano di ognuno di noi! Il Grande Fratello ci osserva perché ci protegge e ci ama! Il Grande Fratello ci osserva perché ci protegge e ci ama! Pensiamo le stesse cose. Gliel'ho letto negli occhi. Ho un alleato. Sapevo quel che provavi. Il tuo disprezzo, il tuo odio, la tua nausea. E avrei voluto dirti che il tuo tormento si sarebbe risolto. Ma i tempi non erano ancora maturi. Io e lui che cosa potremmo fare? Anche ammesso che riuscissimo a parlarci senza essere scoperti. E anche ammesso che esista questa fantomatica fratellanza umana di cui si sussurra negli angoli. Come ci si arriva? Non facevi che tormentarti con queste domande, come un prigioniero che studia la fuga da un carcere di massima sicurezza. E temevi che quella ragazza bruna fosse una spia della psicopolizia. Ha il distintivo della Lega Sesso Facile, perché mi guarda? Non capisco chi sia, mi perseguita. O forse è solo un caso, potrebbe aver capito dal mio sguardo che io non ho voglia di sesso, dal mio modo di muovermi, da chissà che cosa. Se non fosse troppo pericoloso, dovrei eliminarla. E se non la elimino, è pericoloso ugualmente. Ti ho visto come guardavi quella della Lega Sesso Facile. Ma chi? Fai finta di non capire. E che problema c'è? Il problema ci sarebbe per me, che sono sposato e posso fare sesso facile solo con mia moglie. Ma tu sei scapolo? Se per questo sono sposato anch'io. Ma dai, e tua moglie? È andata via. Sono anni ormai. Meglio così. Era insopportabile. Sposato, senza moglie. Quindi niente sesso facile con la moglie e niente neanche con tutte le altre. Per certi versi è un vantaggio. Per altri è uno svantaggio. Prendo il caffè anche per te? No, grazie. Non mi hai aspettato, l'hai già preso? No, non ho mangiato. Fastidia lo stomaco. Ah, mi dispiace. Da noi oggi al Ministero dell'Abbondanza c'era... Da voi che c'era? Non si capiva. Poteva essere... Ma tanto l'amore di fame ho lasciato perdere. Ah, peccato. Chissà che cosa ti sei perso. Da noi oggi c'era agnello in salsa di funghi e cetrioli. Agnello? Ho detto agnello. No, aspetta, dei cetrioli sono sicuro, ho ancora il sapore in bocca. Ma l'agnello forse era coniglio. O forse era... Sai quelle carni vegetali con le ossa di plastica che fanno tanto bene? In una roba cremosa in cui nuotavano dei funghi. Beh, comunque era buono. E l'importante è mangiare. Non sempre. Ah, beh, certo, tranne quando si sta male. A te succede spesso? A me mai. Ma pensa se non ci fosse chi se ne occupa per noi. Chi ci organizza messe come si deve. Tutte belle ordinate, una a seconda del settore per ogni tipo di mansione. Pensa come stanno gli utenti nelle loro città che si cucinano da soli. Pensa che casini. Non sapranno neanche che cosa mangiano. E poi quelle loro osterie, pittoresche quanto ti pare. Ma chi se ne frega dei colori. Per che cosa mi cercate? Ah sì, per la sottoscrizione. Quale sottoscrizione? Quella per la settimana del civile rifiuto. Già te ne sei dimenticato? Io me ne occupo all'interno del nostro condominio. Hai presente? Beh, quest'anno voglio fare una cosa a un livello mai visto. Il nostro corteo deve essere un vero gioiello in mezzo alla manifestazione. Dobbiamo prenderci una menzione dal Grande Fratello in persona. Però serve uno sforzo da parte di tutti. Dal Grande Fratello in persona? Sì, sì, lo so, nessuno lo ha mai visto. Però dobbiamo essere generosi. Certo, certo. Così vanno bene. Oh, benissimo, benissimo! E senti, scusa ancora per mia figlia, Ti ho dato una strigliata. Non ti preoccupare. Ma è terribile, è veramente terribile. Lo sai che cosa ha fatto la settimana scorsa? Ah, Vansini, vieni, siediti qui con noi, ascolta anche tu. È straordinario come educano oggigiorno i bambini ai corsi per giovani osservatori. Insomma, era in gita con la scuola al Museo della Pubblicità, quel palazzo smisurato, e ad un certo punto ha visto un tizio che l'ha fatta insospettire. Ha convinto altre due bambine a darle una mano e lo hanno seguito eludendo la sorveglianza degli insegnanti. Ma lo dico, è pazzesco, non è pazzesco? Lo hanno pedinato per tutto l'edificio quanto è grande e ad un certo punto, arrivati al salone dei detersivi, lì lo hanno consegnato alla pattuglia della psicopolizia. Ma sapete che cosa ha fatto insospettire mia figlia? Il modo di camminare del tizio! A scuola lavorano su tante cose, molte più che ai nostri tempi, e lei ha catalogato per conto suo i possibili significati nascosti dietro il modo di camminare. Ha inventato il passo reato! Un affarino di 8 anni! E che è successo all'uomo arrestato? Ah, non lo so, ma di sicuro non starà ridendo. Voi che ne dite? Siamo elementi di una società civile e democratica. Quello che penso anch'io. Chi va fuori regola deve essere regolato da autorità. Per quanto poi poche cose siano veramente vietate da legge. E questo è stupendo! Un'anarchia democratica autoritaria nella quale conta soprattutto la regola, quella che dentro di noi, che deve essere a norma. È perfetto. Appunto, ne parlavamo anche poco fa. Se uno cammina strano, non rompe nessun divieto. Il divieto è una cosa banale. È come se andasse in giro con una spia rossa accesa. La nostra psicopolizia fa diagnosi ed effettua ricoveri. Non arresti. Del resto non possiamo correre rischi. Non mi meraviglierei se l'avessero proprio... Cosa? No, dico... Vaporizzato? Puoi dirlo. Io lo dico e non mi succede niente. Significa reso leggero, regolato e quindi reso leggero. Non è la parola in sé, la parola è innocente. È la regola che può essere colpevole e grossolana. E occorre essere spietati con chi non vede la propria irregolarità. Per fortuna non c'è più nessuna guerra. Appunto perché c'è la pace. Prevenire anziché combattere! Del resto, la pace è guerra. E la guerra è pace! La pace è difficile da mantenere, molto difficile. Se ci fosse la guerra sarebbe più semplice, quasi quasi sarebbe meglio. Era così, per fare una battuta. Per fortuna, da dopo la grande rivoluzione, c'è una pace incrollabile. La pace si basa su equilibri delicatissimi. La pace con gli altri stati, così come la pace sociale. Perciò i nostri eserciti esterni sono sparsi sul pianeta, per spegnere i fuochi che ogni giorno rischiano di divampare. E perciò la nostra polizia e psicopolizia presidia ogni angolo delle nostre città e campagne. Per spegnere i fuochi che ogni giorno rischiano di divampare. Complimenti, parli come un libro stampato. Volevo dire come un file approvato. Però quello che dici sono frasi proprio belle, sì, belle, profonde. Bisogna individuare il male prima che si manifesti. La regola è ciò che ci muove e ci tiene in piedi. Come va il dizionario? Benissimo, benissimo! Procede lentamente, come deve, ma benissimo! Il dizionario della Liberlingua? A che edizione siamo arrivati? Ci stiamo occupando dell'undicesima, la definitiva. Questa darà la forma finale alla lingua, la sua massima esuberanza ed espressività. E... semplicità! E pertanto durerà nei secoli a venire. Quando avremo finito, dovrete tutti imparare a parlare di nuovo! Deve essere straordinario. Definire in maniera precisa le parole. Non hai capito niente. Noi non definiamo. Definire significa ridurre. E come si può ridurre? Infinita varietà del reale. Come si può? Beh, non saprei. Non si può. Appunto, non si può. Però le parole rappresentano il reale, lo catalogano, quindi devono essere... espressive, chiare, diciamo così. Infinite! Devono essere infinite. Infinite. Infinite. Sarà difficile ricordarle tutte. Questo è un problema che riguarderà la nostra evoluzione, che peraltro avanzerà a tappe forzate. Inoltre, il finito vero corrisponde al finito perfetto e quindi quando le parole saranno infinite saranno un'unica parola. Questo è il meraviglioso mistero della liberlingua. Beh, complimenti. Io non ci capisco un granché. Mi occupo d'altro, naturalmente. Non dipendo come voi dal Ministero della Cultura e della Notizia. Però penso che questo vostro lavoro sia fondamentale per... Vi lascio ai vostri discorsi. Ho da fare prima di tornare alla mia postazione. Ha il cervello di un utente. È una brava persona. Nella dirigenza allargata non servono le brave persone. Comunque, è una cosa meravigliosa l'invenzione a fuoco d'artificio delle parole. Ogni nuova variazione ne genera facilmente altre e altre ancora. Una cascata di suoni sillabici che già oggi riempirebbe non meno di 300 volumi di una libreria. Se il libro non fosse un oggetto superato, e ancora ne abbiamo di strada da fare, ci sarà un nome non solo per ogni oggetto, ma per ogni oggetto in ogni sua possibile posizione o proiezione o temperatura. E non parliamo poi degli stati d'animo. Un bosco al mattino sarà chiamato con un nome che non potrà essere lo stesso alla sera. È assurdo se ci pensi. Due cose diverse, in condizioni diverse, e vengono chiamate allo stesso modo. Con la liberlingua ci sarà un nome diverso addirittura ogni ora. Anzi, ogni minuto ed ogni secondo sarà chiamato con nomi ed aggettivi contrari, apparentemente contrari, a discrezione del punto di vista di ognuno. Tutto ciò è meraviglioso. È la libertà. Non trovi che sia meraviglioso? Vansiri verrà presto vaporizzato. Non ha la discrezione e la stupidità che evitano il pericolo. Un giorno non lo vedremo più e diranno che ha cambiato città. Ho scoperto che esistono nomi di città che non esistono, popolate da quelli che dopo essere stati regolati si sono trasferiti altrove. Città fantasma. Man? Sì, sì. È la quadratura del cerchio. E tu ti preoccupi della possibilità di memorizzare. Io non ho molta memoria. Tu sei distratto! Rinunci. E non ti sei ancora addentrato nella liberlingua. Ho letto cose provenienti dalla tua postazione. Sono ancora povere, concepite secondo vecchi schemi. La liberlingua è precisione assoluta. E da qui a 50 anni la parleremo tutti, ad eccezione della marmaglia degli utenti. Più nessuno dirà mattino alle 8, e mattino alle 9, e mattino alle 10. Si dirà mattotto, e mattove, e mattieci. Questo se vorremmo rappresentarlo in base al semplice orario. Altrimenti si dirà mattine botto se ci sarà la neve, e masolotto se ci sarà il sole, e così via. Ma senti anche la bellezza dei suoni. Masolotto, si percepisce la luce. Mattine botto fa quasi sentir freddo. E poi potremmo andare avanti all'infinito. Dovremo andare avanti all'infinito! La produzione delle parole deve essere come la produzione delle merci! In continua, fantastica, frenetica crescita! È il nostro infinito futuro. Beh, ti invidio molto. Buon lavoro. Ora devo tornare alla mia postazione. Ho diverse richieste di articoli dal cervello centrale da mandare in rete. Lunga vita al Grande Fratello! No. non sfuggite all'occhio elettronico. Il Grande Fratello vi osserva con benevolenza cattiva, che è buona nella sua indifferenza, vi guarda ad occhi chiusi perché ama nutrirsi di bellezza. E solo di bellezza. Ma non solo. Anzi, ama nutrirsi di molte cose, e la bellezza è tutto, benché non sia niente a volte. La bellezza è bruttezza, è brullezza, è beltezza. Inavvertitamente si diventa brutti, e solo lo specchio dei nostri stupendi monitor ci avverte che Dio ci vede brutti. Perciò la regola che è dentro di noi è Dio, che si manifesta, ma non si manifesta manifestamente per immagini ripetute nello scandaglio ossessivo e permanente dei nostri gesti e dei nostri respiri e non respiri, attraverso cui, ma solo in parte totale, si materializza la regola dei nostri cuori, che è cresciuta spontaneamente nel vostro intimo dal terreno igienico e sterilizzato della nostra meravigliosa civiltà teolaica. Accettate la molteplicità infinita dove tutto si unisce a tutto e dove la malattia è sconfitta. L'unica malattia che assomma in sé tutte le possibili malattie è la malattia della regola. Regolatevi, di conseguenza. Mi guarda in un modo che non capisco. È bella, dovrei farmi avanti per mostrarmi normale. Ma se poi non fossi sessualmente all'altezza sarebbe ancora peggio. Dopo mia moglie ho voluto provare una volta con una prostituta, ma tuttora se ci penso ho i conati di vomito. Ai primi baci il trucco si screpolò e apparve decrepita come un cadavere. Da allora mai più. Però voglio tornare nella botteguccia dove ho acquistato questo diario. Anche se è una follia, cosa spero di ottenere girando nei quartieri degli utenti? Mi fa sentire più coraggioso. Se mi localizzano le postazioni degli osservatori sono finito. Eppure non so farne a meno. Qui si respira un'aria diversa, c'è la speranza del futuro. Qui, nonostante tutto, c'è più vita. Quello è un ferro vecchio, da 100 anni. È un rasoio. Ah, bello, conosci? Ne ho letto in un info di rete, c'erano solo la foto e 4 parole. Ma anche le cose, se vuole. E la mette? Sì, veramente. Mi sa che ci bazzica più le rime con questa roba. Comunque deve esserci una confezione nuova nuova. Nuova nuova voglio dire, mai aperta. Non ho mai avuto la curiosità di trovarlo. Cosa, quello? Sì, sì, l'ho fatto una volta. Ah, eccole qua. La mette. Qui c'è di tutto, anzi adesso siamo in calata. Comunque tutta roba che non si fabbrica più. Pensa, da dopo la rivoluzione. Quella l'ho studiata. Il patto democratico si chiama, mi pare, che ci morirono migliaia di persone, tanto va sempre a finire così, poi si sta meglio. Che poi dice che pure prima si stava meglio. Chi lo dice? Anche mio nonno, per esempio. Ah, suo nonno? E che dice? A capirlo mica è facile, ci vuole una pazienza. Magari sarà perché io sono nato dopo, ma poi chi se ne frega. Invece sarebbe interessante, dalla rivoluzione in poi è stato cancellato un mare di cose. Ma no... insomma, non lo so. In ogni caso, non sono nostalgico. E poi tanto, non le conoscevo. Questo però lo sa. Ci ho fatto la maionese una volta. La maionese? Una bomba! Mia madre mica ci voleva credere che l'avevo fatta io. La maionese? Eh sì, ha la forma giusta, guardi. Basta sfidare un po'. Si allargano delle bracchette, rimane uno spazio. Funziona a meraviglia. Sbatte così, in tondo. La maionese. Mi piace cucinare. Mio padre era cuoco, sono cresciuto in cucina. Adesso lui non c'è più. Quindi suo padre era vecchio, con la soglia non ci avrebbe fatto certo la maionese. Ma no, no, che vecchio, era ancora giovane, è morto sulla spiaggia. Un litigio con l'ombrellone ben vicino del asciugamano, quello gli abbia dato sullo stomaco. Comunque se vuole usarlo per farsi la barba, va bene lo stesso, Io l'ho pulito dopo la maionese. Ma poi roba usata, chissà che altro ce l'hanno fatto. Io ho detto a poco, è l'ultimo. Grazie. È più per curiosità, non che abbia nostalgia. Invece mi sembrava che... No, ero un ragazzino quando c'è stata la rivoluzione. Certe cose di allora mi divertono. Ma poi per radio mi uso il laser cut, è più comodo. Questo come soprammobile. E il sapone? Vuole del sapone? È quello che serve per farsi la barba. È un sapone particolare. Ma per una volta mi lavo la curiosità. E come no? Io me la sono levato con la maionese. È solo che non lo so, è dovrei chiedere a mio nonno, il negozio è suo. Da un po' di tempo non ce la fa più e quindi... Beh, non c'è nessuna urgenza, se le capita di trovarlo posso ripassare. Intanto questo lo prendo. E anche le lamette. Va bene, le faccio 5 pezzi. Senta, ma lei mi sembra di conoscerla, non ci siamo già visti? Non lo so. Io mi ricordo di tutti e lei l'ho già vista. Non saprei. Magari qui al negozio o allo stadio. Non frequento lo stadio. E come no? Se le dico di no. Ma no, qui al negozio ha comprato un quaderno di carta speciale, dopo di 5-6 mesi fa. Un quaderno di carta? Sì, una carta con un nome strano che non mi ricordo. Bristol. Bristol! E una penna anche. Ah sì, chissà dove l'ho ficcata. Mi era piaciuto per il colore, ma... Avevo comprato qui. Sono forte, quello che entra qui non ne esce più. Ma non è un cliente. Facciamo solo 4 pezzi, sconto speciale. Io non mi ricordavo proprio. Io non dimentico mai quella faccia. Potrebbe farci assumere dalla psicopolizia. Lei mi sta simpatico. Anche lei è simpatico. Ma l'altra volta adesso mi torna in mente. Mi avevo mostrato una camera al piano di sopra che davate in affitto. Ah sì, prima ci dormiva il nonno, che però adesso non ce la fa più con le scale e si arrangia nel retrobottega. Mi è venuta un'idea. Ma lasciamo stare. Piuttosto, questa è la mente. Mi ricordo che usavano un sistema casalingo per rifare il filo. Mio padre mi aveva accennato che ai tempi di mio bisnonno una lavetta se la facevano durare anche un mese. Ma lei è giovane, lei non ne sa niente. Mio nonno non sa senz'altro, lui su questa cosa va forte. È suo nonno. E glielo chiedi? Ma no, se non sta bene. E capirà, quello si diverte. È una cosa senza importanza. Nonno, c'è un signore di là che ti vuole conoscere, ti vuole chiedere una cosa. Ti porto di là. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto, deve essere finita la partita della provinciale di Battimuro. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto, nonno, abbiamo vinto. Lui è sfegatato, adesso non scolla più il culo dalla sedia, ma se no... Invece non me ne frega niente del battimuro, si scatenano sempre così e poi alla fine ci scappa pure qualche morto. L'ultima volta hanno tirato giù una casa a mazzettate, saranno stati un centinaio. Una casa. Gliel'abbiamo messo nel culo! Una casa, a un certo punto è crollata, tutti a scappare quelli di fuori. Mentre quelli di dentro li sono rimasti sotto. Gliel'abbiamo messo nel culo! No, il signore qui che è un cliente, ti voleva chiedere una cosa. Gliel'abbiamo messo nel culo! E questo l'abbiamo capito. Adesso il signore qui, che è un cliente, ti voleva chiedere una cosa. Ah. Va bene. Glielo chiede. Mi sono sentito uno stupido in quel momento. Che importanza ha la manutenzione delle lamette rispetto alle cose gravi che succedono? Però non ho potuto esimermi. E poi erano simpatici. Volevo sapere, è una stupidaggine, ma così, tanto per curiosità. Le lamette. Lamette da barba. Lamette da barba. Lamette da barba. Continui, ha capito. Se le ricorda. Nonno, le lamette da barba, te le ricordi? Le ragazze ci si tagliavano le vene per l'amore. E questo va bene, però il signore voleva sapere un'altra cosa. Tante, ma tante. Ai miei tempi era così. Si suicidavano. Per romanticherie. Io ho avuto 3 fidanzate prima di mia moglie. Che Dio l'abbia in gloria. E quando le ho lasciate... Senza. Ero molto bello! Gli facciamo vedere le fotografie, No, si vede benissimo. Questo è un pacchetto di lamette. Questo è un pacchetto di lamette. Un pacchetto di lamette. Era nel negozio, nonno. Era l'ultimo rimasto, l'ha comprato il signore. Quante barbe mi ci sono fatte. Adesso non le fabbricano più. Da anni. Non si capisce il perché. Perché? Perché? Perché i nostri governanti... I nostri governanti... Non vanno più bene. Le lamette? Lasciavano la pelle morbida. Morbida, che le donne non ci capivano più niente. Lasciamo stare le donne, invece volevo sapere. E poi c'era un sistema straordinario. avevano... Io l'avevo imparato da mio nonno che aveva fatto la fame e le cose dovevano farsene bastare. Quando le donne... Lasciamo perdere le donne, nonno! E perché? Quando le donne avevano lavato i bicchieri, belli puliti, sgrassati, che se ci passavi il dito facevano... Lui ne prendeva uno, ci metteva dentro la lametta appena poggiata alla parte curva, e poi prima da un lato, e poi dall'altro. Zizza, zizza, zizza, zizza, gli faceva di nuovo il filo. Con una lametta ci andava avanti anche 2 o 3 mesi. Capito? Anche queste cose non si sanno più. Ah, ecco. Che le avevo detto? Era questione di pazienza. Comunque, io chiacchierò, chiacchierò, non è che voleva sapere. Niente, nonno, niente, niente. Sì, fammi. Come niente? Sono vecchio, ma non sono ricoglionito. Ma era una cosa senza importanza. E va bene, tanto niente ha importanza. Almeno passo il tempo. Questo è un libro di storia. Se lo dice lei. Ma è vecchio, quello che c'è scritto non servirà più a niente. È vecchio, come me. Sì, ma la storia non cambia, un fatto è un fatto. Lei che lavoro fa? Giornalista. È della dirigenza, no? Sì, dirigenza allargata, Ministero della Storia e della Notizia. E allora se non lo sa lei? Oggi ci sono più possibilità, a parte veramente. I ragazzi non devono caricarsi tutta questa carta. Senta, quanto pesa. Mi è venuto un guaio alla schiena che ancora me lo porto appresso. Adesso invece accendono un video e li trovano tutto. È il contrario di tutto. È un'altra cosa. Quindi ai suoi tempi c'era solo questo? Questo e anche altri. Anche altri. Da quel poco che mi ricordo... Ma adesso c'è più varietà. Sì, ma di un fatto importante, molto importante, della storia della nazione. Dicevano tutti la stessa cosa. E chi li leggeva tutti? Io ne avevo uno, ma quello mi doveva bastare. Adesso è meglio. Quindi adesso è meglio di prima? Di prima? No, prima era meglio. Ma era meglio prima o adesso? E così lo fa confondere. Ma la rivoluzione capitalista, così l'hanno chiamata. Il patto democratico. E anche la pianificazione sociale, la PPP, pace, politica e profitto, ma anche... Ma insomma, lei l'ha vissuta. Com'è stata? Un sacco di morti. Quindi non era pacifica? No, no, tutto pacifico. L'ho raccontato pure l'altro giorno. Possibile che nessuno conservi memoria di qualcosa senza confondere il bianco col nero. Eppure so di avere ragione. Il passato non si può modificare e un fatto ha un solo modo d'essere. Uno e uno solo. Lo vuole comprare? Cosa? Il libro? Vediamo. Io lo posso mettere da parte? Sì, magari. Ma invece volevo chiedere. Si sente male? No. Le posso dare una bustina effervescente? Sto già meglio. Volevo chiedervi, insomma non era un problema. Volevo prendere in affitto la cameretta di sopra. Ah, la stanza del nonno! Mi era piaciuta per la sua tranquillità e poi... Ma voi siete persone simpatiche, discrete. Lo so, ma non gliela possiamo dare. L'abbiamo già affittata. No, l'ha già affittata? Eh già, qualche giorno fa. Ma non ha importanza, era un'idea. Ma nonostante tutto, gli utenti mi sono simpatici. Sono l'umanità. Il futuro è nelle loro mani. Se si rendessero conto della loro forza, se l'energia che buttano per una partita la spendessero per capire. Arrivederci. Arrivederci. Per il libro vuole. Certo, certo. Grazie. Stento a crederci. Ciò che sembrava nero è diventato bianco. La ragazza che mi seguiva mi ha dato un biglietto con su scritto «Ti amo». Si chiama Giulia. Mi ha dato appuntamento da Mulaki, il Robi Vecchi. È lei che ha preso in affitto la soffitta del nonno. Mi sento come se la Terra avesse preso a girare al triplo della sua velocità e non mi rendo conto del pericolo. Ma forse qualcosa di grande sta per accadere. Man! Sono io? Ti disturbo? No, no, entra, entra, la porta è aperta. Che c'è? Niente. Ti vedo incerto. Lavorava un pezzo. Ah, liberlingua, eh? Sì, infatti. Senti, poco fa stavo ascoltando un notiziario. Ma lo sai che faranno una grande commemorazione di un grande eroe del passato? Un giornalista! Uno che è morto per la grande rivoluzione! Io non me lo ricordo, perché ero molto piccolo all'epoca. Però pare davvero che sia stato un eroe. E lo sai come si chiamava? Eclarius Mann! Proprio come te! È incredibile! Eclarius Mann? Sì, Eclarius Mann! Per carità, il cognome è piuttosto comune. Ma il nome no! Io di Eclarius conosco solo te! Insomma, ti faranno una commemorazione! Un giornalista come te! Ma io ti sto disturbando, tu devi lavorare. Qui dice che è stato un traditore. Dove? Leggi. Aveva tradito gli ideali della rivoluzione. E quando la polizia... Ah, ecco! Eclarius Mann, giornalista di prima grandezza, eccetera, eccetera, eccetera. E a me chiedono di scrivere un pezzo sulla sua riabilitazione. Bene! E infatti è lui, mica mi sbagliavo! Eclarius Mann! Ne abbiamo avuti di grandi uomini, eh? Giornalista di prima grandezza. Beh, complimenti. Il nome ce l'hai. Giornalista lo sei. Di prima grandezza diventerai. Ti lascio lavorare. Come si può sopportare tutto questo? Com'è possibile che nessuno si renda conto di trovarsi in una palude avvelenata? Com'è possibile dimenticare i fatti? Devo riuscire a parlare con Moreno. Devo riuscire a collaborare con la fratellanza umana, il movimento rivoluzionario. Vuoi restare per sempre sulla scala? Si direbbe che non ti fa piacere vedermi. Eppure sei arrivato fin qua. Rilassati. Se vuoi, puoi anche guardarmi. Ti faccio paura. Non sono della Lega Sesso Facile, sta tranquillo. Non lo sono di dentro. Bisogna fingere per campare. Non ti ho attirato in una trappola. Tu sei diverso. L'ho capito dalla prima volta che ti ho visto in faccia. Puoi anche parlare se ti viene. Qui non ci vede e non ci sente nessuno. Non ci sono né microfoni né occhi elettronici. Vedi io. Tu? Io pensavo... Pensavi. Non lo sai che è vietato pensare. Pensavo che tu fossi... Fossi una spia. Ti sembro una spia. No, certo. E allora? Allora? Alla faccia di quegli stronzi che ci vogliono zambizzare. E ora guardami. Voglio che mi guardi. No, ferma, ti prego. Perché? Per me così non è possibile. Il sesso... da diverso tempo, no? Non so come spiegartelo. Va bene. Va bene, tranquillo, non è un problema. Non è per fare il sesso della regola che ti ho avvicinato. Non ti avrei dato appuntamento qui, non ce ne sarebbe stato bisogno. Sì, l'ho capito. Se ci beccano, rischiamo di non raccontarla. Appunto. Non sarei mica un cagasotto. Mi sembravi diverso. Ho paura, ma non fa niente. Il mal di stomaco me lo tengo lo stesso. Meglio quello che accettare la morte in vita. Lo so che corriamo dei rischi tutti e due. Il fatto è che... è che non credevo possibile questo. È un sogno. Lo sai che potremmo non arrivare a domani. Lo so. Basta una stronzata per perderci. So anche questo. Ma se riuscirò a parlare con Moreno. Moreno? e uno in gamba. Presto, spero, lo conoscerai anche tu. Posso baciarti? La vera rivoluzione, forse, comincia da qui. È l'unica vera donna che abbia mai conosciuto. Se esiste questo, esiste anche la libertà. Se esiste questo, esiste anche la verità. Mi sento una forma a tre dimensioni in un mondo a due dimensioni. Un mondo dove tutti strisciano senza sapere che proprio lì, in mezzo a loro, c'è un'altra possibilità. Buoni questi biscotti. Hanno un sapore che mi ricorda di quando ero bambino. Non fare il nostalgico, è una cosa che non aiuta. Ma no, che c'entra? Che questi... Li ho comprati qui, nei quartieri degli utenti. Ecco, infatti. E sono uguali a tutti gli altri. Ma sono uguali. Sono uguali, è tutto uguale. Cambiano soltanto le etichette. Navighiamo tutti nella stessa merda, anche gli utenti. A te stanno più simpatici perché sei un nostalgico, ma sono nel buco come tutti gli altri. Io non sono un nostalgico. Sì. Sei un nostalgico. Ma no, ti dico di no. E io ti dico sì. Un nostalgico irrecuperabile. Pace qui. Davvero pensi che sia un nostalgico? Te la sei presa? No, ma che volevo capire? Te la sei presa? Sei vergognoso. No, ma che volevo capire in che senso sono nostalgico. Appunto. Per malosetta, per malosetta. E tu allora sei stronza? No. Eh sì. Per malosetta. Stronza. Per malosetta. Stronza. Per malosetta. Stronza. Per malosetta, per malosetta, per malosetta, per malosetta, per malosetta, per malosetta. A me mulaghi e nonno stanno simpatici, che ci posso fare? Ma sì, anche a me. E poi ci hanno affittato questa soffitta. Solo che anche loro vanno in vacanza come tutti gli altri negli stessi posti ammucchiati come pecore. Lavorano senza sapere perché, si bevono qualsiasi zozzeria esca dai monitor. Come i maiali all'ingrasso, felici della loro stessa merda. Lo so, però sono tanti. Hanno energia da vendere. Da buttare. Da buttare al cesso, sono stupidi. Anche quelli della dirigenza allargata. Tutti i nostri colleghi dei vari ministeri, tutti gli aderenti, i collaboratori. Sono stupidi. Si mangiano tutto. Credono di essere uomini liberi. Questo vuol dire che non c'è più speranza. Ma speranza ci deve essere, per forza. Infatti c'è. Sei tu. Un po' mi sembra che soltanto io distingo le cose. Ricordo. Hanno dato la notizia che faranno la commemorazione di Eclarius Magno, il giornalista morto durante la rivoluzione capitalista. Sì, sì, l'ho sentito. Eroe, ma anche traditore, eccetera, eccetera, eccetera. La solita storia. Si chiamava come te. Era mio padre, cazzo! Era tuo padre. Ed è morto ucciso dai poliziotti davanti ai miei occhi, perché non voleva sottostare agli ordini dei cosiddetti rivoluzionari. Io ero un bambino. Come può essere contemporaneamente eroe, traditore, vigliacco da riabilitare e non si sa quante altre cose? E com'è possibile che a nessuno venga voglia di capire? Ma tu ti vuoi ribellare? Io mi sto già ribellando. E anche tu. Alla mia postazione arrivano le richieste più assurde. Devo scrivere articoli modificando di volta in volta cose già scritte da altri. Ma mi è capitato di dover modificare cose già scritte da me. E poi restano tutte e due le versioni, insieme a tante altre propinate da altre postazioni del ministero. E io non riesco a non vedere. Anch'io non riesco a non vedere. Perciò ti ho riconosciuto. E non lo so se questo ci porterà a un'altra rivoluzione, se esiste veramente la fratellanza umana di cui si parla, se un giorno saremo veramente liberi. Però esistiamo noi. E dobbiamo continuare a vivere, a pensare e a fare l'amore. Quello vero. Nessuno può entrarmi nella testa e farmi pensare quello che non mi va di pensare. È bello questo che dici. Non avevo capito niente quando mi guardavo. Mi facevi paura. Ti avrei ucciso volentieri. Ma non l'hai fatto. E adesso andiamo via, si è fatto tardi. Usciamo ognuno per conto suo. Io a scuola. E io dall'ingresso fra 10 minuti. Tre esponenti di spicco della dirigenza madre sono appena tornati dai territori confinanti in Oriente, dove i nostri eserciti combattono per mantenere la pace. I tre rappresentanti della nostra nazione hanno fraternizzato coi soldati, hanno detto loro: noi vi osserviamo con interesse e affetto, fate molta ginnastica, convincete chi si ribella, mangiate cioccolata e usate preservativi. Questi i consigli regalati ai combattenti di pace vivi. Ai morti sono stati regalati dei fiori. Quello che mi è successo è straordinario. Tuttavia da quel giorno non ho più rivisto Giulia, sono passate 2 settimane. E nemmeno Moreno. Se fossero stati arrestati sarebbe la fine di ogni speranza. Ma se hanno arrestato loro, perché non arrestano anche me? Ho sempre più paura anche di partecipare ai 30 secondi del civile rifiuto. Il grande fratello è grasso come un porco, gli puzzano le ascelle, il culo e i piedi, ma meno male che c'è. Non lasciatevi sfuggire la nuovissima edizione della Regola e Subliminal CPX per sapere come comportarsi, per fare sempre la cosa giusta. Subliminal CPX Regola, apprendimento facilitato mentre dormite, per i bimbi, per i nonni, per tutta la famiglia. Subliminal CPX Regola, nuovissima edizione, l'aiuto che vi mancava. Leggere attentamente le avvertenze potrebbe provocare danni irreversibili e catastrofici. Pronti per i 30 secondi del civile rifiuto? Questo è Clarius Mann in una foto di quando tradì la causa della rivoluzione. Via i 30 secondi! Rifiutate! Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario! Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario! Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario! Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario! Ci libereremo di chiunque ci dia fastidio, anche di noi stessi se necessario! Ringraziamo il grande fratello che ci ha permesso di urlare e di rifiutare. Grazie, grande fratello. Grazie, grande fratello. Dov'è risparita? Ci rivediamo stasera. Domani, alle 3 nella soffitta. Giulia è tornata. E anche Moreno è libero. Questo per ora è importante. Ciao, Man! Ciao, Napoli! Un caffè? No, meglio di no. Come mai? Anzi, sì, un bel caffè mi ci vuole proprio. Anche tu? Io lo prendo corretto a giro. Ma lascia, vado io. Grazie. È corretto anche per me. Grazie. Mi è successa una cosa. Ho cantato nel sonno. Mia moglie, per fortuna, mi ha svegliato. Forse gli osservatori non mi hanno sentito. Forse. Hai cantato? Sì. E non una canzone qualsiasi. Ma una canzonaccia che ho sentito un giorno in un quartiere degli utenti. L'ho sentita una volta sola e mi si è ficcata in testa. Non l'ho più dimenticata. Come fa? Stai scherzando? Ci manca solo che la canti tu. No, le parole. Ti sento solo io. Il grande fratello è grasso. Ciao, Man. Ciao, Vansiri. Ciao, Vansiri. Ciao, Napoli. Che meravigliosi 30 secondi dell'amore oggi. Ho quasi pianto davanti alla foto di Clarius Mann, il tuo grande omonimo. Straordinario, un uomo straordinario. Ho letto il tuo pezzo su Clarius Mann, il tuo omonimo. Non male, direi, non male. Ma, secondo me, potevi spingere di più sul pedale della commozione, soprattutto quando racconti del poliziotto vigliaccamente assassinato da Mann. Mann sta vendendo informazioni ai nemici della rivoluzione. Il poliziotto lo sorprende, il traditore! Spara al servitore della patria senza nessuna pietà! Beh, c'è materia da smuovere anche i cuori più duri. Hai ragione. La prossima volta terrò presente i tuoi consigli. Ora vi lascio. Il dizionario mi aspetta. Ciao, Vansiri. Devo andare anch'io. Ho paura. Magari a quell'ora gli osservatori avevano spento il nostro terminale e dormivamo tutti in una famiglia tranquilla. Ho sentito che molti di loro fanno così. E allora non ci pensare. E se mi risuccede? Devo prendermi i sublimi da CPX regola. Me lo sparo a bomba e ritorno normale. È un'idea. Eh sì, per forza. Per forza. Grazie dei consigli. Per così poco. Ci vediamo. Dove andiamo? In che senso? Come in che senso? In che senso? Io sto andando per i fatti miei. Anch'io, ma tanto tutto può aspettare. Un cavolo può aspettare, il leva questa mano. E dai, mica sarà la prima volta. Leva questa cazzo di mano! Ma che la lega se sto facile, fai la difficile! Mi piace scopare, ma non con te. Potrei denunciarti! Fai parte della lega sesso facile, magari sei vergine. Ti piacerebbe tanto controllare se è così, non è vero? Ma anch'io potrei denunciarti. Ah sì? E perché? Non te lo dico, tanto lo sai benissimo. Lo sappiamo tutti e due. Io non so niente, e nemmeno tu! Per adesso lascio perdere. Mi si è fatto tardi, solo per questo lascio perdere. Ma sì, lascia perdere. Il ricordo di mio padre mi spinge a sperare, a non arrendermi. Non posso pensare che sia morto per niente. E l'incontro con Giulia mi dà la forza di credere. E poi non so più tornare indietro. Buongiorno. Eccoci qua. Senta, per quel libro. Io l'ho messo da parte. Eppure spolverato. Due pezzi. Solo per lei. Grazie. E in quei fiori di seta? Allora sono quattro pezzi. La roba che non si trova più. La signorina è già salita. Mi piacerebbe andare a fare l'amore su un prato. Anche a me. Ma qui gli occhi satellitari non entrano. E poi i fiori ce li abbiamo. Questi non appassiscono. Li teniamo qua. Sì. Il piccolo prato di questa piccola soffitta. Via! Che c'è? Un topo è scappato da un buco in quell'angolo. Bisogna racchiuderlo. Un topo? In questo posto? Chissà quanti ne girano, sono dappertutto. Ma che hai? Se c'è una cosa che mi fa orrore, sono i topi. Non li sopporto. Non li sopporto, non li sopporto. Calmati, calmati, calmati, sei andato, non c'è più. Adesso tappiamo il buco. Non è vero che ce ne sono tanti, ho detto così, per esagerare. Respira, non pensare al topo. Respira, respira. Ti voglio bene. Ecco, un po' di carta pallottolata per il momento basterà. Poi lo chiudiamo meglio. No, non con quello. Preferisci il topo? Per far come vuoi. Ma lo sai che uno della cultura mi voleva scopare per strada? Un tipino con gli occhi spiritati, si chiama Vansiri. Vansiri? Sì, un soggetto odioso. Che secondo lui, siccome faccio parte della lega sesso facile, la devo dare a chiunque senza discutere. Ma io faccio l'amore solo con chi mi pare. Si chiama proprio Vansiri? Sì. Lo conosci? L'hai fatto con molti uomini? Moltissimi. Sei geloso? No. E lo farò ancora. Darebbe nell'occhio se smettessi. Il sesso usa e getta il quello della regola. Quello che non fa male a nessuno, tranne a chi lo fa. Quello che ti svuota come un guscio d'uovo. Quello che loro vogliono che si pratichi, perché più si pratica meglio è per quelli ai quali fa comodo che non pensiamo e non capiamo. Meglio scaricare ogni problema in una farfalla di carne e via, cazzo! La macelleria del sesso! È meglio che la donna sia uguale all'uomo, così crede di essere cresciuta anche lei. Perché ha potere anche lei, è violenta anche lei, ed è una bella prometta obbediente ai ritmi della scienza! Quello che facciamo noi invece è vietato, non rientra nella regola, perché invece di svuotarci ci riempie di vita, di energia, di conoscenza. Perché mi guardi così? Sei meraviglioso. Sono normale. Perché ti sei iscritta alla Lega Sesso Facile? Sono stati i miei genitori. Loro erano semplici utenti, gli deve essere sembrato un buon modo per farmi entrare in una sfera più alta della società. Poi un giorno sono scomparsi. Li hanno portati al Ministero della Regola e da allora non li ho visti più. Io ho fatto finta di niente. Ho continuato il mio lavoro di costruzione di romanzi porno insieme alle altre della sezione. Ho continuato ad essere allegra e a gridare come una bestia alle manifestazioni del civile rifiuto. Io voglio stare con te. Dici che ci resterà? Non ci voglio pensare. Forse l'ho già cercato. Non ti tormentare con domande inutili. A volte mi sembra che ci siamo usciti da una vittoria. Altre volte sento il freddo della morte fuori della porta. E non si può tornare indietro. Non si può mai tornare indietro. Giulia, io non sono un eroe. Paura, però non ti tradirei. Faresti il mio nome se ti torturassero. È normale, anch'io farei il tuo. No, l'importante non sono i nomi, sono i sentimenti. I sentimenti? Non possono impedirmi di amarti. Quello sarebbe il vero tradimento, la vera distruzione. Non possono impedirmi di amarti. E certo, io stessa non sono padrona dei miei sentimenti. È una cosa che va da sé. Come possono costringermi a non amarti? È indipendente da tutto. Possono entrare dovunque, ma non lì. Nel cuore no. Significa che abbiamo già vinto. Qualunque cosa accade. Noi abbiamo qualcosa che gli altri non hanno. Possono torturarci, vaporizzarci, ma non possono distruggere la nostra essenza. La nostra essenza sopravvive al nostro corpo e resta in dono alle generazioni future. Finalmente è accaduto. Ho incontrato Moreno, da solo, mi ha parlato. Si è complimentato per il mio uso della liberlingua che invece io uso malissimo e mi ha proposto di prestarmi la 10ª edizione del dizionario appena pubblicata. Era un modo per darmi il suo indirizzo. Andrò a trovarlo prestissimo, insieme a Giulia. Sapevo che esiste la fratellanza umana. Sapevo che si può scuotere questa palude di finta libertà e sapevo che Moreno è il punto finale della mia vita di uomo libero, dopo Giulia, naturalmente. E ora accada pure quel che vuole. Venite, venite. Iosto, spegni pure l'occhio elettronico. Lei può spegnerlo? Abbiamo questo privilegio, noi della dirigenza madre, ma per non più di 15 minuti. Ora l'unico che può vederci e sentirci è il mio segretario Iosto. Accomodatevi. Dite voi il motivo del nostro incontro. Siamo qui perché sappiamo, cioè siamo convinti, che esista un'organizzazione rivoluzionaria che vuole rovesciare questo sistema. E sappiamo anche che Iosto lei... fissa bene in mente le loro facce. Sarà lui a tenere i contatti. Con me potreste non rivedervi mai più. Come faremo a riconoscerlo? Adesso non ha importanza. Abbiamo poco tempo. Siete pronti a morire? Sì. Siete pronti a uccidere? Sì. Siete pronti a rinunciare alla vostra identità per la causa della fratellanza umana? Sì. Siete pronti a separarvi e a non vedervi mai più? No. Non possiamo, ci amiamo. Ma se si rendesse necessario farvi cambiare identità, cambiare viso, a quel punto sareste due persone diverse, forse non vi piacereste più, non vi amereste più. È bene che lo sappiate. Combatterete nell'ombra, riceverete ordini solo da me e solo attraverso Iosto, e saprete pochissimo, quasi niente. Non potrete tradire nessuno. La fratellanza umana è un'organizzazione fantasma, perciò è indistruttibile, perché non esiste. Voi... non esistete. Il vostro compito è lavorare senza sapere perché, giungere alla fine, confessare cose inutili e svanire. Niente cambierà durante la vostra vita, voi siete i morti. La vostra vita è nel futuro, al quale parteciperete come manciate di polvere e schegge d'ossa, forse fra 1000 anni. Nessuno lo sa. Alla rivoluzione. Alla rivoluzione. Rivoluzione. Ora andate. Che ore sono? Sono le 7:15. Quanto manca? Manca poco, non essere impaziente come al solito. Chiudi il negozio. A cosa stai pensando? A quello che ha detto Moreno. Ma non vuoi più andare avanti. Perché è possibile? E allora non c'è alternativa. E poi Moreno ha esagerato per farci immaginare il peggio. Il peggio non è mai immaginabile, è sempre una sorpresa. Improvvisamente mi sento sola. Anch'io. Stiamo accusando il colpo. Abbiamo saltato il fosso. Però ci abbiamo. Questo è l'unico albero che non si può abbattere. E quindi anche tutto il resto. Facciamo parte di un'organizzazione che non esiste, l'hai sentito? Non siamo nemmeno banditi, latitanti, semplicemente non esistiamo. È la cosa più importante che ha detto Moreno. Non esistiamo. Ce ne dobbiamo convincere. Perché se davvero non esistiamo, non ci possono neanche catturare. Infatti non ci possono catturare. Però possiamo organizzare la massa degli utenti. Possiamo istigarli alla rivolta. Una rivolta vera! Non come quelle proteste dove urlano tutto e il contrario di tutto e poi si ammazzano fra loro. Possiamo informarli di come stanno sul serio le cose. Possiamo utilizzare questa soffitta come base organizzativa. E qui siamo al sicuro. E per il resto continueremo a essere io una della Lega Salsa Facile e tu banale giornalista del Ministero della Notizia. Detto così sembra tutto semplice. Non è semplice. Non lo sappiamo fare diversamente. Hai ragione. Ho voglia di fare l'amore. Questo diario sarà per Moreno e per me e per Giulia il pensiero che precede l'azione, il concepimento che precede la vita. Non ho più bisogno di scrivere le cose che desidero. Stanno già avvenendo. A un futuro migliore. Fermi dove siete! Fermi dove siete! C'è un occhio elettronico! C'è un occhio elettronico! Non vi toccate! Tutto è possibile! E ora in piedi! In piedi! Il grande fratello vuole guardarvi per 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Noi siamo gli eroi. Voi siete i morti. Scendete uno per volta, prima la femmina, poi il maschio. Veloci, veloci. È indecente vedervi così. State dritti. Non aiutate nemmeno un povero vecchio ad appoggiare i piedi per terra. Oh! E tu che ogni tanto non vuole lasciare la soffrire da solo. E adesso, in marcia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Cosa volete sapere? Quanto calzi di scarpe? Mio cognato Iosto ti ha chiesto quanto calzi di scarpe! Quanto calzi di scarpe! Vogliamo regalarti delle polacchine! Le polacchine di caporetto! Buone con te! 41, porto il 41! Ah, 41! Bel numero! In piedi. E cosa devo confessare? Ti vuoi confessare? E perché ti vuoi confessare? Sei in peccato mortale! Sta dritto! Non sei qui per confessarti. E noi siamo buoni se non ci fai delle scortesie. Anche una pecora reagisce se la tratti male. E se ha a disposizione un'arma. E l'arma adesso ce l'abbiamo noi. Noi siamo a tua disposizione. Dobbiamo solo darci da mangiare. Mangiare, niente di più, puoi scegliere. C'è un sacco di roba buona qui. Ti lascio dormire. Sformato di patate con pancetta. E funghi. E funghi. Ci sono i funghi. E funghi. Polpettone di maiale con formaggio filante, trenetti al pesto. Con lo zafferano. Il pesto non c'è lo zafferano. Polpettone c'è lo zafferano. Ah, nel polpettone. Dopo le trenette c'è l'agnello. E le trenette ci sono i fagiolini. E le patate, cazzo, lo sanno tutti. Magari lui non lo sa. Comunque, l'agnello disossato, impanato, mi fa venire l'acquolina. A seguire, soufflé di tonno. Il soufflé alla cipolla. Alla cipolla. Cruda. Cruda, che importanza ha? Se gli sta pesando. È uno che digerisce quello che stomaco. Ecco, che ti avevo detto? Oh. A seguire, pollo con le pere. E la birra. E la birra! Zucchine infagottate alla francese, cioè? Informati, lasagne ai quattro sughi, piselli. Ma digli quali sono i quattro sughi. Ma che cazzo gliene frega, sono quattro. Ha diritto di saperlo, sennò poi siamo stronzi noi. Ma sarai stronzo, tu sono quattro, va bene. Quattro, cinque, sei sughi. Quella è una ciotola di maionese. Quelle sono carote in agrodolce. Con aggiunta di lampassoni. Con aggiunta di lampassoni, che cazzo sono i lampassoni? Una specie di cipolle. Cipolle, cipolle. Lepre alla cacciatora, ravioli alla zucca, wurstel con crauti, burro e salvia, pasticcio di fegato, salsa di cavolini di Bruxelles al vapore, con mentaglia di linguazzetto, con maionese, goulash norvegese, couscous di montone, con tortellini in brodo di carne, perfetto, involtini primavera, paella, agnello, pollo e gamberoni, perfetto, e per finire una decina di dolci diversi, con panna, creme, cioccolatini vari, liquori, guarnizione, pan di Spagna, sfoglie e frolle. Ti interessa la specifica dei dolci? Non gli interessa. Allora, cosa ti piace di più? Puoi scegliere! Devi scegliere. Il cocama, così lo metti a disagio. Le lasagne ai quattro sughi. Accomodati. Prego. Che cosa aspetti? La sedia? No, devi mangiare comodo come gli antichi che mangiavano stesi su un fianco. Stenditi. Stenditi? Io te che sì che se lo intendevano. Oppure stavano supini, da qualche parte ho letto che stavano supini. Stavano su un fianco. Supini! Ah, sì, supini è sicuramente meglio. La schiena più dritta, la pancia più lenta. E puoi mangiare di più, molto di più. Allora, cosa non ti piace proprio? Che c'è, non stai comodo? Eppure è una posizione ergonomica. Non ci vuoi dire cosa non ti piace proprio? Peccato. La maionese! A me se non l'ha mai presa, neanche con le patatine fritte! La maionese! E allora cominciamo con la maionese, così alla fine ti resta la bocca buona! Questo è comodissimo! Trita tutto laser inside! No! Ultimo, no! Trito, no! Non fate! Non fate! Calmo, calmo! Devi solo mangiare buona, ma buona! E trita anche le ossa! Sul ricche di calcio! Maionese! Pure la plastica, la polvericcia! Bisogna abituarci a tutto e mangiare tutto, se no è qua così ho fatto il culo per niente! Agnello! Meraviglioso! Non stai ingoiando! E allora sei maleducato, noi ti invitiamo a pranzo e tu non mangi? Non farla arrabbiare. Noi ti invitiamo a pranzo e tu non mangi? Non si tiene la roba in bocca senza mandarla giù? Adesso mangia, dobbiamo bambino, adesso mangia. No, la molletta no. Ecco, voglio vedere come cazzo respira adesso, stronzo. Tu vuoi fare festa a me? Respira, stronzo, forza. Respira, eroe, tu non esisti. Devi mangiare quello che ti diamo, hai capito? Mangia, mangia, ti prego. Non sopporto queste discussioni a tavola. Vuoi morire? No, non vuole. Allora vuoi mangiare? Vuole mangiare, vuole mangiare. Sì, ha ringraziato il cielo. E allora via, sformato di patate, tronetti al pesto. Soufflé di tonno, pollo con le pere, ti piace, stronzo? E mangia, e non ti agitare tanto. Si agita perché gli piace. Zucchine infagottate alla francese, pisellini ripieni, qua ho lavorato 5 ore solo per questi. Carote in agrodolce, con aggiunta di lampascioni, lepre alla cacciatora, ravioli alla zucca, wurstel con crauti. Che fai di fede? Vuoi morire con una molletta al naso? No, la molletta no, la molletta no. È la simpatia che mi rende convincente. Pasticcio di fegato, cavolini di Bruxelles al vapore, salami di Praga in guazzetto, goulash alla norvegese, couscous di montone, tortellini in brodo di carne, involtini primavera, paella, agnello, pollo e gamberoni. E per finire il piatto preferito, lasagne ai quattro sughi. E poi creme, mangia, sfoglie, mangia, cioccolati, mangia, marmellate, mangia, porti, mangia, lasci, mangia, grassa, colorata, mangia. E adesso sulla pancia, portati sulla pancia, pancia in giù, forza. È l'unica parola che conosci? Giusto, saltali sulla schiena e fai cavallino. Divertente. Cavallino, hop, hop, oh! Cavallino, hop, hop, oh! Cavallino, hop, hop, oh! Cavallino, hop, hop, oh! Credi che mi diverto? Sei uno dei pochi ad avere la guardia personale. Napoli, attraversa in diagonale la stanza e imbocca il corridoio giallo. Man! Napoli, che ci fai? Napoli, è vietato fermarsi. È stata mia figlia? Attraversa in diagonale la stanza e imbocca il corridoio giallo. È stata mia figlia a denunciarmi! Attraversa in diagonale la stanza e imbocca il corridoio giallo. Sembra incredibile, eh? Un affarino di 8 anni! Man, e Clarius Man, prepararsi per la stanza 101. In piedi. Balsiri, il corridoio giallo. La liber linguaggi, napolitura, clariutato, peccato! Balsiri. Man, è vietato parlare agli altri prigionieri. Balsiri, il corridoio giallo. Peccato! Io sto chiando, ma la chiena, le tue alberene del creatore, no? E venì, streiste, mareniste! Stanza 101 per Man. Stanza 101 per Man. Accomodati. Un diario che inizia con una poesia. Molto interessante. Adesso scriveremo insieme tutto quello che manca, il vero finale della tua storia. Prendi questa pastiglia. Che cos'è? Ti farà rilassare ad assorbimento istantaneo. Ci incontreremo nel luogo dove non c'è tenebra. Lo sapete fin dall'inizio, in questa stanza la luce non si spegne mai. Sono 3 anni che ti osservo. Perché prendere tanto tempo per me? Perché ne vale la pena. Hai qualcosa di interessante che una volta regolato... Parla di te un uomo utile. Hai visto quei due che andavano verso il corridoio giallo? Uno era troppo e l'altro troppo poco. Entrambi inutili. Dove porta il corridoio giallo? Verso la vaporizzazione. Ma anche verso la vita, ma anche verso la felicità, ma anche verso il dolore, ma anche... Ti senti meglio? Molto meglio. La sostanza che hai assunto è in grado di farti stare molto bene. Ma anche... molto male. È sufficiente che io usi questo telecomando. Così. Era soltanto a 20. Cosa devo confessare? Niente. Dobbiamo regolare la tua regola in modo definitivo. Nessuno esce da questa stanza senza che la sua regola sia tornata in ordine. Nessuno esce dalla prova finale così come vi è entrato. Che cos'è la prova finale? Le domande le faccio io, d'ora in poi. Tu dovrai rispondere. Bene attento a evitare le bugie, disobbedienze, accondiscendenze, cadute al di sotto della tua intelligenza. Questo telecomando può arrivare fino a 150. Ti stai chiedendo perché non siamo intervenuti prima, 3 anni fa. Perché abbiamo lasciato che la tua iniziale confusione, i tuoi dubbi attivi diventassero monopensiero, entusiasmo, speranza? Fa parte della cura. Maggiore è la speranza, maggiore è il dolore. Maggiore è il dolore, più definitiva la guarigione. E ora attento. Perché per un intero mese hai mangiato tutto quello che si preparava per te, anche se era molto di più di quanto tu fossi abituato a ingerire? Che ho sempre difficoltà col cibo. È una buona risposta. Ma anche... te lo dirò io. Perché siamo cattivi. Perché i tuoi torturatori hanno bisogno di sfogarsi. Perché abbiamo cibo in superproduzione. Perché? Perché infine devi capire... che si mangia tutto quello che viene preparato, come un bravo bambino. Alla tavola del Grande Fratello non si sceglie, non si scarta. Il Grande Fratello esiste. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. risponderò in omaggio al multipensiero. Esiste e non esiste. È uno ed è multiplo. È lui, ma siamo tutti noi. Perciò questa meravigliosa democrazia autoritaria fondata sul consumo non avrà mai fine. E ora dimmi, ricordi di aver avuto un padre che si chiamava come te? Sì. È morto? Sì. Ne sei sicuro? È morto davanti ai miei occhi. Quanti anni avevi? 6 anni. Un bambino di 6 anni è in grado di capire se un uomo è morto. Io l'ho visto. Ti hanno portato via subito, potrebbe essere rinvenuto. Gli hanno sparato. C'è chi sostiene che in seguito sia emigrato altrove. È morto, ucciso dai gendarmi della rivoluzione. Quella è solo una pagina in un libro infinito. Il multipensiero ci permette di accettare tutte le pagine. Ma tu non vuoi accettare, tu vuoi mangiare solo le lasagne perché ti piacciono di più, perché ci sei affezionato. Davanti a una tavola riccamente imbandita tu ti fai prendere dal tarlo della scelta, dal cancro del dubbio attivo che ti blocca su un piatto impedendoti di godere del resto. La nostra civiltà è talmente evoluta da offrirci tavole con cibi infiniti. Ci chiede solo di non sceglierne uno. Se scegli, consideri gli altri sbagliati. Questa non è più democrazia. Questo è razzismo, questa è infelicità. Per quanto riguarda la tua personale esperienza, tuo padre è vivo, ma è anche morto. È un eroe, ma è anche un traditore. È anche scomparso per seguire una donna e adesso vive in un'isola all'estero. È anche. Non vedi la bellezza di tutto ciò? Noi stabiliamo di momento in momento una verità parziale, per comodità, ma sappiamo che quella non è la verità. La verità non esiste. Ogni fatto è multiforme. Pretendere di fissarlo è un peccato contro la realtà. Pretendere di fissare la realtà equivale a porsi al posto di Dio. E chi sei tu? Sei Dio? Ma il dolore esiste, è certo. Per questa idiozia indegna di te meriti un livello 80. Il dolore per il telecomando era solo 30, per te era 80 e per me era qualunque grado di questa scala. Sei un soggetto difficile ma interessante. Quando avrò finito con te non sarai più un uomo nell'accezione che tu dai a questa parola. E adesso vediamo dalla teoria alla pratica. Quante dita ha una mano? 5. E se io ti dico che ne ha 3, quante dita ha una mano? 5. Quante dita ha una mano? 5. Hai sperato il pezzo! La regola della sincerità adesso non vale. 60. Quante dita ha una mano? Basta! Basta! Quante dita ha una mano? 3. No, basta, non imbrogliare, non è il tuo pensiero. 5. Quante ne metti? 3 e 2. Quindi? E quindi? E dritto di piegata, non faccio! Sì, ma zicche le tue piegate! Devono essere tagliate! Se fossero tagliate? Se fossero tagliate... 3. Prendi un'altra pastiglia. Io sono il tuo medico, il tuo giudice, il tuo confessore, il tuo maestro. Grazie. Se fossero tagliate, quante sarebbero? Se fossero tagliate... 3. Ricominciamo. Sono tre! Ti ammetto che ora la seconda pastiglia ti farà provare più dolore. Io ne vedo tre! Quante ne vedo? Cinque! Non ne ha due! Cinque! Sentiti di chiedere due! Ne ha due! La tua pastiglia è straordinario, l'essere umano. Per alleviare un po' quel tuo dolore la prendi? Anche se sai che dopo ti farà stare peggio. Ricominciamo. No, ti prego, non ce la faccio. Sento che la corona dei tuoi bagli manca di mille volte. Ti prego, non resisto. Uccidimi, uccidimi. Fatti da una mano. Cinque. Fatti da una mano. Cinque, sì, tre, due. Fatti da una mano. No. Contemporaneamente molte dita e nessuna. Se le dita vengono tagliate, non per questo qualcuno potrebbe non vederle, o noi stessi. È il multipensiero. Ora capisci almeno che è possibile. Hai fatto un passo avanti. Nessuno che viene qui da noi se ne va senza essere stato guarito completamente. Noi non facciamo gli errori dei nostri predecessori, che bruciavano gli eretici sulle piazze mentre gridavano la loro eresia. Così l'eretico moriva e l'eresia sopravviveva. O che imponevano la verità. Quella è solo quella. Non era altro che miseria spirituale. E c'è stata un'epoca, quella che ci ha preceduto, nella quale si pensò che fosse più semplice nascondere la verità sotto un cumulo di notizie, punti di vista, versioni, infelice e libera produzione. Nacquero addirittura gli opinionisti. C'era chi agiva per servilismo, chi per opportunismo, alcuni per convinzione errata. In parte funzionava, ma c'erano sempre coloro che in quella matassa inestricabile di parole riuscivano a trovare un bandolo che gli permetteva di arrivare a una verità. Parola inspiegabile. Erano gli individui tormentati dal dubbio attivo. Una civiltà, per edificarsi, ha bisogno di una regola e di controllo profondo. Noi abbiamo instaurato il dubbio passivo, il dubbio inerte, che permette di discutere, di accanirsi, ma di accettare poi qualunque cosa. È la dote innata degli utenti, che si affaticano, sudano, vanno allo stadio, si arrabattano per il piatto di minestra, la bistecca, il panettone a Natale, un appartamento scadente. Adoro gli utenti e adoro i potenti, noi della dirigenza madre. I più a rischio siete voi, che state nel mezzo. Voi intellettualisti, scienzisti, parolisti, arruolati e regolati per fabbricare una verità tascabile. La verità che cerchi tu è inutile, dannosa, tranne a chi ha il potere e a Dio. Ti sono concesse tre domande. Cosa avete fatto, Giulia? Non è bene che tu lo sappia. Ti dirò soltanto che ti ha tradito subito. Ti ha rinnegato. Se la vedessi ora non la riconosceresti. Credi di potermi mentire col silenzio. Stai pensando che tu invece non l'hai tradita. Stai pensando che tu invece la ami ancora e che niente potrà impedirtelo e che con questo barlume di umanità potrai portare in giro una fiammella di vita, idiozia del genere. Sappi che non avrai mai la forza di ribellarti a questo sistema. Non sei stato più bravo di Giulia. Semplicemente non ho ancora finito. Dopo la prova finale non sarai neanche il più pallido ricordo di quello che sei abituato a chiamare un uomo. E io sono il tuo carnefice, il tuo protettore, il tuo amico. Quello che ricevi qui ora è in dose massiccia, quello che in dose blanda ricevono tutti, quotidianamente, nel mondo della vita. Che cos'è la prova finale? Lo sai già, pensaci. Tutti lo sanno. È la cosa peggiore del mondo. E varia da individuo a individuo, ognuno ha la sua, personale. Per alcuni può essere bruciare o affogare o un'infinità di altre morti. Per altri sono cose più modeste, nemmeno fatali a volte, se non in particolari condizioni. Nel tuo caso, la cosa peggiore del mondo sono i topi. Non serve nemmeno che ti leghi, la paura è più forte di qualunque corda. Non è necessario, tu lo sai, non è necessario. Il dolore semplice non è sufficiente a ottenere tutto. Un essere umano può resistere al dolore anche in punto di morte, ma per ognuno c'è sempre qualcosa di insopportabile. Il coraggio non c'entra. Per te questa cosa sono i topi, una forma d'oppressione che non sapresti tollerare, nemmeno se volessi. Perciò farai quello che mi aspetto da te. Che cos'è? Come posso fare? Non so che cos'è. La sostanza che ti ho spalmato sul viso è un gel al succo d'acero. Il topo ne è ghiotto di tante cose, peraltro. È anche carnivoro, addirittura onnivoro, animale di spiccata intelligenza. Dici quello che vuoi, io lo faccio. Capisce in un attimo quando un essere umano non è in grado di difendersi. Il funzionamento di questa gabbia è molto semplice. Basta sollevare lo sportello e il topo ti si attaccherà al viso come una sanguisuga. Potrebbe accontentarsi del succo d'acero, non si sa, come vedi giochiamo ad armi pari. Oppure potrebbe continuare, incuriosito dall'odore della tua pelle. A volte si interessano alle labbra, per passare poi alla lingua. Altre volte agli occhi, dai quali sono capaci di arrivare fino al cervello, sono imprevedibili. Era una punizione molto in uso nell'antico impero cinese. Falla Giulia! Falla lei! Distruggete la faccia! Fatelo Giulia! Fatelo Giulia! Fatelo Giulia! Fatelo Giulia! Fatelo Giulia! Fatelo lei, non a me! Fatelo Giulia, non a me! Non a me! Come vedi, lo sapevi. Per ottenere qualcosa bisogna sacrificare qualcos'altro. Questa primavera è meravigliosa. Gli uccelli sembrano contenti. Anche noi sembriamo contenti. Noi sembriamo molto contenti. Molto contenti. Il giorno in cui vedrò un topo, per quello che è, quel giorno sarò un uomo libero.